X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Per il Cremlino, Stati Uniti ed Europa hanno tentato di organizzare in Ucraina un'altra rivoluzione colorata al solo scopo di danneggiare la Russia. Colpi di artiglieria a ripetizione, esplosioni molto forti di tank, feriti e morti sia tra i filorussi che fra i soldati dell'esercito regolare di Kiev. A Sloviansk, nell'est dell'Ucraina, è battaglia tra l'esercito di Kiev e le milizie filorusse. 4 paramilitari di Kiev sono stati uccisi e oltre 30 sono i feriti, almeno 10 le vittime sul fronte opposto. L'offensiva su larga scala dell'esercito ucraino punta a riconquistare la città di Sloviansk. Il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov definisce criminale l'intervento dell'esercito ucraino nell'est. È evidente a tutto il mondo che contestatori pacifici non si presentano con lanciagranate e armi automatiche. John Kerry. La diplomazia sembra avere ceduto il passo alle armi e alle operazioni antiterrorismo decise da Kiev. C'è il pericolo che nuovi scontri possano esplodere anche nella parte occidentale del meridione ucraino. Così Obama. Next step. Il prossimo passo sarà composto da un regime di sanzioni settoriali su vasta scala. Abbiamo già detto di voler continuare a tenere aperta la possibilità di risolvere il problema per vie diplomatiche. Se vedremo un proseguimento della destabilizzazione tale da impedire le elezioni del 25 maggio, però saremo costretti ad applicare sanzioni più severe. Generale Carlo Jean, buongiorno, esperto di strategia militare e geopolitica. America, Europa parlano di sanzioni contro la Russia da settimane, ma sono parole o sono sanzioni applicabili, generale? No, buongiorno. Guardi, sono soprattutto parole per un semplice motivo. Le sanzioni non faranno arretrare Putin, che ha messo praticamente ci hanno rimesso la faccia sulla questione dell'Ucraina. E la prima, l'altra cosa è il fatto che le sanzioni avrebbero un onere molto differente tra i paesi europei e gli Stati Uniti. Gli Stati Uniti hanno 1% del commercio, i paesi europei arrivano a 15%. E quindi sarebbe solo l'Europa che ci rimette, diciamo, l'Occidente sarebbe l'Europa. Sì, ma poi vede, l'Europa è estremamente divisa, non solamente tra gli Stati, ma anche all'interno degli Stati. Se vede la destra europea, per esempio Marine Le Pen, ma anche l'Alternative for Deutschland in Germania, sostengono l'azione di Putin. E Putin è estremamente abile nell'utilizzare queste divisioni sia fra stati sia all'interno degli stati, utilizzando anche la leva economica. E quindi la possibilità di colpire realmente gli oligarchi russi, che sarebbe il fatto forte e che farebbe forse reagire Putin, non è nell'ordine delle cose? Ma non è nell'ordine delle cose, perché anche il Cremlino si sta surclassando da un punto di vista strategico. Adotta quelle teorie della guerra non lineare che sono state elaborate da Vladimir Surkov, che è quello che aveva elaborato anche la teoria della democrazia sovrana o democrazia controllata, praticamente sulla verticale del terrenino su cui sono concentrate tutte quante ecco, i poteri. Generale Jean, ma sul piano militare si può dire che è in atto una guerra civile in Ucraina o no? Ma sicuramente episodi di guerra civile ci sono, perché ci sono le forze dello Stato che stanno cercando di reprimere dei movimenti secessionisti. Ma può esplodere in modo definitivo oppure no questo tipo di conflitto? A mio avviso l'interesse del Cremlino, che più o meno tiene a briglia corta i manifestanti prorussi, ogni sorti prorussi, è di continuare a lungo in modo tale da distruggere. Una guerriglia? Sì, questa guerriglia, Donetsk, Odessa e così via, in modo tale da mantenere destabilizzata l'Ucraina. E quindi l'Ucraina destabilizzata è sostanzialmente è abbandonata dall'Occidente. Ma sostanzialmente abbandonata dall'Occidente sotto l'influenza russa. Certo. D'altra parte l'economia ucraina è strettamente collegata con l'economia russa. E quindi Putin non sta scherzando col fuoco, ma sta realizzando una strategia? Sta realizzando una strategia in maniera con la mente molto fredda e sicuramente in maniera molto capace. Senta, il presidente dell'OCSE, l'Organizzazione per la Sicurezza in Europa, oggi incontra Putin a Mosca per fissare i termini di un dialogo nazionale a Ginevra. È una diplomazia inutile, sono chiacchiere? Sì, ma a mio avviso il presidente dell'OCSE fa il suo lavoro, di conseguenza poi deve giustificare anche la sua esistenza. E che poi possa concludere qualcosa è estremamente difficile. Sì. Ad eccezione che non venga realizzato quello che ha proposto Lavrov, il ministro degli esteri russo, che cioè la costituzione ucraina sia una costituzione federale, diciamo così, l'Ucraina venga suddivisa in maniera abbastanza esatto. simile con, cui, sì. con quello con cui Dayton ha diviso la Bosnia-Herzegovina. Secchi che ha una domanda, generale. Buongiorno, generale, ma secca proprio. Ma l'Italia da che parte sta? Perché io ancora non l'ho capito. Ma l'Italia sta evidentemente con le scelte di politica estera fondamentali, cioè la scelta europea e la scelta atlantica, però sia il legame transatlantico, sia i legami intereuropei, soprattutto in fatto di politica estera economica, sono estremamente deboli. Sono estremamente conflittuali tra paesi e paesi. Quindi sta ferma in mezzo, butta fuoco. Buongiorno generale, io vorrei sempre mantenere sull'onda della domanda di Mario Secchi, portando un dato. Cohen, il sottosegretario al tesoro degli Stati Uniti d'America, è attualmente in Europa e ha stabilito tre tappe, che sono Londra, Parigi e Berlino. Sono gli interlocutori in questa fase perché ci sono degli interessi rispettivamente della Gran Bretagna, della Francia e della Germania in Russia. La questione è che l'Italia perde 15 miliardi di esportazione in questa fase e il Ministero è assente. No, quello lì non è abbastanza tipico della politica italiana o della politica degli altri paesi nei confronti dell'Italia. Generalmente gli Stati Uniti hanno sempre sostenuto l'Italia e in un certo senso hanno equilibrato il peso minore dell'Italia rispetto a quello dei grandi europei. Ci pensavano loro. Grazie generale. 800 24 00 24 numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Viva la Rai, fa crescere sani, viva la Rai. Viva la Rai, quanti geni lavorano solo per noi. Viva la Rai, con il suo impero dice la Rai, soltanto impero, viva la Rai, dimmi da quale parte stai. Viva la Rai. Onorevole, buongiorno, onorevole Antonello Giacomelli, sottosegretario alle comunicazioni. Allora, viva la Rai, ma con il suo canone al consumo, lei da che parte sta? Intanto buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Canone al consumo, capisco una definizione suggestiva, ma non è molto esatto. Noi lavoriamo a un'idea di riforma radicale del canone che vada incontro alle ragioni di Rai, ma anche a quelle dei cittadini. La nostra idea è introdurre nel nuovo modello tre principi di riferimento: più equità, non è giusto che si che paghino tutti uguale. Uguale, un modello che prima di tutto bisognerebbe, onorevole, prima di tutto bisognerebbe che lo pagassero tutti, esatto, tanto esatto. O poco, recuperi, ma tutti. Esatto, che recuperi il problema imbarazzante dell'evasione. 30%. Esatto, il terzo punto che dia certezza di risorse. Ecco, allora, questo canone a consumo, diciamo modulato e misurato, ci dirà come, porterà più o meno canone alla RAI in termini di risorse? La vedo diversamente, mi perdoni. Ah, prego. Diciamo, il canone è un corrispettivo che nasce da un confronto. Da una concessione in realtà, sì. Sì, no, da un confronto e poi col contratto di servizio. Sì. La concessione stabilisce il soggetto che deve svolgere, certo, il servizio pubblico. Esatto. Il contratto di servizio è quello che... Che dice cosa deve fare la RAI. Esatto, cosa deve fare la RAI. Dice cos'è il servizio pubblico oggi. Questo. In base alle cose che lo Stato chiede, evidentemente deve dare un corrispettivo per quel servizio. Naturalmente. Quindi il corrispettivo a RAI, a mio avviso, è misurato esattamente da cosa noi chiediamo al servizio pubblico. Dopodiché il problema di come lo Stato reperisce le risorse è collegato, ma a un altro tema. Ecco, ma è un tema molto forte, perché per adesso non può essere collegato al pagamento del canone, perché viene evaso, e se è una tassa, le tasse vanno pagate, diciamo, no? No, questo è un principio generale, non vale solo per il canone. Ovviamente, però per il canone poi viene tollerata un'evasione, non è che si spegne la televisione chi non la paga. Non è che viene tollerata, è che non, a mio avviso, per il meccanismo, per come è costruito, è difficile mettere in campo strumenti efficaci per combattere l'evasione. Quindi questo problema dobbiamo risolverlo cambiando esattamente la modalità. Ma intanto... La RAI, il canone, perché fa un servizio e perché realizza il contratto di servizio, lo merita? Certo. Sì? Senta che cosa dice un autorevolissimo editore italiano, l'ingegner Carlo De Benedetti. Nel 2016 scade la concessione del canone in esclusiva alla RAI. Un attimo, parliamo, visto che siamo nel mondo dei media. Molti si stanno organizzando per avere quote di questo canone su progetti specifici. Lei ci ha pensato? No. Perché? Ma perché noi non siamo capaci di fare televisione. La nostra capacità l'abbiamo fuori dalla carta stampata, l'abbiamo dimostrata nella radio. Ma perché il canone si deve pagare per il TG1, non per il TG di Mentana, oppure per le interviste dell'Annunziata e non per quelle della Gruber, per Carlo Conti e non per Cronza? Insomma, ok, il canone della RAI, ma per fare cosa? Ma guardi, io lì credo che proprio bisognerebbe reinventarsela la RAI, nel senso che un canone ha senso se fai un servizio nazionale, se fai un servizio al paese. Se fai una televisione commerciale, per giunta a mio parere di scarsa qualità, non ha nessun senso pagare. E oggi è una televisione commerciale? Beh, insomma, voglio dire, c'è da solo da scegliere il peggio tra Mediaset e RAI, ecco. Quindi non è che mi sembra che la RAI sta contribuendo a creare una cultura, uno spirito, un futuro per il paese. Cosa insegna la RAI oggi? Nulla. Non è titolata a avere un canone. No. Non è titolata. E quindi titolata. Come dovrebbe tra invece... 2016 fra un anno e mezzo? Beh, ci penserà chi... ci devono pensare molto. Penso che Renzi abbia delle idee in proposito. Ecco, onorevole Giacomelli, ha sentito parole molto dure, però il riferimento a Renzi che ha delle idee, sono queste che sta dicendo lei, immagino. Ma non sono il depositario di tutte le idee. No, naturalmente, ma dato che se ne occupa quindi, per il governo. Per definizione, il Presidente del Consiglio dalla linea, in questo caso per definizione, diciamo, anche con un accento in più, naturalmente. Certo, naturale. Però le parole di De Benedetti sono molto, molto dure, naturalmente, possono essere di parte, però... Io condivido la parte del ragionamento iniziale. Sì. È necessario che ci sia un cambiamento profondo di RAI. Ecco. Ecco, dal punto di vista dell'offerta, ovviamente, perché cambiare, perché la televisione è quello che va in onda, tutto quello che c'è dietro, la gente non lo sa, no? Sì. Dal punto di vista dell'offerta, ma anche dell'organizzazione. Naturalmente, per fare una certa offerta ci vuole una certa organizzazione, cioè la RAI deve rifare un patto con gli italiani, diciamo così, se si può dire. Diciamo così, deve ridefinire che cosa è oggi servizio pubblico, ecco, lei... in un tempo profondamente cambiato. Ecco, e lei me lo sa dire, in un servizio pubblico nell'era multimediale, multipiattaforma, con il canone pagato in un modo diverso, mi dice tre cose che deve fare di sicuro? Sì, la RAI deve diventare una, come si dice, una media company, cioè in realtà un operatore in grado di produrre contenuti per... più piattaforme, deve essere presente attraverso le diverse modalità in cui oggi c'è la fruizione dei contenuti, cioè i miei figli passano più tempo di fronte al computer che di fronte al televisore. Ma questo non c'è dubbio, devono essere allora, contenuti multipiattaforma. Lei sa che la BBC ha raddoppiato il canone per fare servizio pubblico su tutte le piattaforme, quindi è logico. Sì, però lei sa che il canone della BBC è rimasto fermo per 5 anni senza adeguamenti all'inflazione. Certo. Se fosse successo qui magari avremmo avuto un'assemblea dell'Usigrai. Ecco, però, ma l'assemblea dell'Usigrai non è una cosa che turba moltissimo. Al contrario, è molto interessante. Io sono intenzionato ad andare a lo credo, è importante parlare. Rientrerò in anticipo da Bruxelles per andare a discutere. Perché lei va a Bruxelles a parlare con il commissario, no? Sì, sì. A proposito di commissario, questa delega è arrivata per andarci in modo come dire... Non è arrivata in modo formale, ma in modo sostanziale, sto già svolgendo l'incarico e quindi non sarà quello il problema. Va bene, senta, però noi siamo interessati a capire con il commissario, anche dopo i fatti recenti che hanno interessato gli Stati Uniti, perché è evidente che la pronuncia della Federal Communication cambia in qualche modo anche lo scenario, perché il fatto che negli Stati Uniti si sia accolte le ragioni delle telecom, delle società di telecomunicazioni, e stabilito che gli OTT, gli over the top, debbano pagare un fee per restare per la banda che utilizzano, evidentemente obbliga questi protagonisti forse a rivedere il loro rapporto con i competitori e con i governi, con gli stati. Naturalmente. Quindi a me interessa capire, la linea poi la stabilirà il Presidente del Consiglio quando assumeremo. Insomma, lei parla per capirci, della battaglia per la web tax sostanzialmente, in qualche modo. Vorrei capire come si concilia il principio della net neutrality, che noi condividiamo, con le esigenze più diffuse e con questi fatti recenti, e con la necessità che le società di telecomunicazioni sviluppino sempre nuovi servizi, che non vadano a detrimento dell'idea di una rete per tutti. Senta, onorevole, ma la vendita di RaiWay serve per finanziare la messa in borsa, penso, no, di RaiWay, serve per finanziare quei 150 milioni che servono al governo per la spending review? No, io penso che varrà molto di più. Ah, questo è sicuro. È l'anticipazione di un progetto che riguarda, diciamo così, da un lato la messa a valore delle strutture delle infrastrutture di telecomunicazione, che altrimenti rimangono semplicemente statiche e inutilizzate, non fa perdere il controllo pubblico, certo, ed è il primo passo di una strategia più complessiva per cui noi vorremmo che le infrastrutture... Ecco, no, dicevo però, onorevole, perché siamo un po' fuori tempo, una cosa precisa però, lei ha detto una media company che produce contenuti per tutte le piattaforme, ma lei lo sa... una cosa concreta, se vuole. Ecco, ma quella è una cosa concreta, infatti, ma lei lo sa che la gran parte dei prodotti... fatti e mandati in onda dalla Rai nelle fasce di prime time sono prodotti d'acquisto e non di produzione? Sì, cioè la capacità di produrre molto bene e meglio di me la realtà della Rai. Anche questo cioè, è un punto voglio dire, bisogna investire sul prodotto, perché questo è il problema, bisogna a questo punto. Sul prodotto multipiattaforma declinabile. E bisogna che la Rai sia il treno per tutto il comparto dell'audiovisivo italiano. Va su bene. Questo insieme con Franceschini stiamo lavorando. Va bene. Però mi faccia dire una battuta, sì, forse lo dica. La ripartizione delle reti e delle testate, frutto ancora dell'accordo politico del 75. Sì, ma è una cosa superatissima. Sì, sì. È superata nella realtà e nella vita. Naturale. La RAI sopravvive. Non c'è dubbio. Credo va superato. Grazie onorevole, auguri per il suo lavoro, sarà molto molto complesso. 800 24 00 24 il numero verde, SMS 349 238 6666. Andrea Lorusso Caputi, che è il presidente dell'Associazione dei dirigenti della RAI, buongiorno. Buongiorno. Ecco, lei ha sentito quello che è stato detto, ha sentito l'onorevole, ha sentito Carlo De Benedetti. La palla tocca a voi, la centralità del prodotto è in mano ai dirigenti della RAI, la state progettando? La stiamo progettando e direi che il giudizio di De Benedetti io lo trovo un po' superficiale, approssimativo e soprattutto forse di qualcuno che non guarda tutta la televisione. Ma voi cosa state facendo, visto che dice che state progettando? Noi stiamo progettando il passaggio alla media company, per esempio, la radio sta già andando sul web, stiamo facendo molte cose, ci vuole del tempo per farle, ma soprattutto c'è un problema di fondo rispetto a quello che ha detto il sottosegretario Giacomelli. Sì. Bisogna uscire dall'equivoco di una televisione pubblica, unico esempio in Europa, che è finanziata in modo duale, sia dal canone che dalla pubblicità. Questo fa parte della struttura, dottor Rosso Caputi. I programmi vanno bene? No, i programmi di prime time probabilmente vanno ripensati profondamente, perché sono proprio quelli che producono l'immagine della RAI, ma contemporaneamente sono l'obbligo della RAI per avere il finanziamento dalla pubblicità. Ma si può dire che esiste, si può dire che esiste la centralità del prodotto in questo momento? La centralità del prodotto fuori dal prime time, sì, assolutamente sì, c'è un'offerta amplissima. se pensiamo a quello che sarà in questi, nei prossimi giorni, il Giro d'Italia che andrà anche su Rai Educational. Quindi, ah beh, se c'è il Giro d'Italia su Rai Educational, allora il servizio pubblico ha diritto al canone. No, ma voglio dire una cosa, voglio dire questo, scusi Minoli, prego. Voglio dire questo, che bisogna vederla nel complesso l'offerta. Le do un dato che forse l'onorevole Giacomelli non conosce. Sì. La Gcom ha valutato l'attività di servizio pubblico per ogni anno in valore di 300 milioni di euro in più di quello che la RAI incassa dal canone. Il problema torna lo stesso, la valutazione è sul prime time, è sul prime time che noi abbiamo perso la capacità. L'identità, di... si chiama identità. Identità, l'informare, divertire ed educare. Beh, questo è, l'hobby, ma... è il compito di tutte le televisioni di servizio pubblico. Esatto, ma va fatto soprattutto sul prime time. Io credo che De Benedetti veda poco la televisione. Ma adesso questo immagino. Ma lei se la pensa... vede, la vede la sera. Ma lei pensa che si può arrivare a un mercato del servizio pubblico, cioè del canone, un mercato del canone, cioè su progetto... l'editore, il locale nazionale, su progetto accede a quota del canone? No, perché il servizio pubblico deve permeare completamente tutta l'offerta, non può essere un pezzettino. Sarebbe come dire che uno ha diritto, pubblicando su un giornale di gossip, un articolo di culturale e gli pago l'articolo culturale. Vabbè, quindi perché diciamo che adesso va bene così, allora, secondo lei? No, non va bene così, però ci deve far uscire la politica da questo equivoco della RAI finanziata. Senta, lei ha detto che i dirigenti si stanno preparando. Cosa stanno preparando per gestire? Lei lo sa che in la BBC, per ristrutturarsi e adeguarsi al futuro chart di servizio pubblico, ha fatto una grandissima pulizia di dirigenti. È un rischio che temete? No, ma la pulizia l'abbiamo già abbondantemente fatta. La RAI ha risparmiato negli ultimi anni, ha speso meno, perché il canone è rimasto grosso modo lo stesso, la pubblicità si è dimezzata e l'azienda quest'anno ha chiuso il bilancio inattivo, quindi di cose ne abbiamo fatte tante. E quindi va bene, diciamo, i dirigenti, viva la RAI, ritorniamo a viva la RAI. No, bisogna ripensare il prodotto. Ah. Il punto vero dove dobbiamo tornare è avere dentro la RAI, direttamente con la RAI, persone che sanno pensare il prodotto. E ci sono? In questo momento sono fuori dalla RAI, le abbiamo perse. Ah. E quindi quelle dobbiamo recuperarle. Quindi 8.000 dipendenti, ma quelli che pensano il prodotto sono fuori? Ma abbiamo 8.000 dipendenti perché noi abbiamo una struttura produttiva che Mediaset non ha. Ah, okay. Se andiamo a fare il conto di quanto costa un prodotto di Mediaset comprato, fatto totalmente all'esterno, noi abbiamo tecnici, abbiamo maestranze. Abbiamo perso invece quelli che pensano il prodotto. Lì dobbiamo insistere. Va bene, e allora speriamo che per il 2016 questa sia la scommessa che i dirigenti della RAI posso fare vincere. Un'ultima, sì, rapidissimo perché se abbiamo chiuso. Sì. Un'ultimissima battuta. Noi siamo molto poco bravi a vendere noi stessi. La televisione guardatela tutta quanta. Avete 13 canali televisivi e 3 radiofonici, se non riuscite a venderla è un problema. Però vendere se stessi è un ragionamento diverso dal fare delle cose. Va bene, ok, allora speriamo che impariate a vendere voi stessi. Grazie mille. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, sms, pubblicità. Mix 24. Sono fiori d'inverno, ma per un'altra stagione, oppure un altro ricordo che adesso non so. Nient'altro che fiori, cosa vorranno mai dire a guardarli di nuovo? Non dicono. Pietrangelo è sempre. No, non è metropolitana. Non eravamo in metropolitana. Non era neppure albeggiato, perché lo spettacolo dell'alba viene preparato da un brulicare di vita intorno al mercato dei fiori. L'ho visto stamattina a Roma. Ed è bellissimo vedere come se ne vanno quei fiori a tracolla, come se fossero archi, con una faretra con le frecce. e sembrano fiori di un'altra stagione. Una bellissima canzone di Gianmaria Testa, e la propongo per oggi. Perché viene un giorno che a guardarlo passare sembra il giorno di una... Abbiamo avuto tantissime reazioni al discorso che abbiamo fatto sulla RAI, ci torneremo, ma Enrico dalla Grecia ci scrive: Giro d'Italia con Divina Commedia a fine tappa, anziché il processo, la tappa su RAI Education. E questo può essere un suggerimento per la commistione alto-basso. Mario? Vabbè, ma noi facciamo radio, no? No, non quindi... hai fatto, bolle. Basta, bolle. Siete nella cacca fino alle orecchie. Ancora non ve ne rendete conto, ma siete la generazione dei tre niente. Niente lavoro, niente reddito, niente risorse. Davvero un gran bel futuro. Eccolo, il grande Gordon Gekko. Allora, è interessante. Oggi è una giornata, vedrete, un po' di bolle molto legate alla finanza e all'economia. E in Fed we trust, noi crediamo e abbiamo fiducia nella Fed, però stamattina l'euro è partito molto forte a 1,39 perché tutti aspettano l'intervento di Janet Yellen, cioè del presidente della Federal Reserve. È al suo esordio, no? Quasi? Sì, al suo esordio, infatti, al congresso americano. Sarà in due round, uno oggi e l'altro domani. Qualcuno si attende un aumento dei tassi? Forse no, è ancora un po' presto. Certo, ci sono buone notizie sul fronte dell'occupazione negli Stati Uniti, però aspettano che si consolidi ulteriormente la ripresa economica. Aspettiamo domani, diciamo. Aspettiamo tra oggi e domani. Se tra oggi e domani, e noi invece non aspettiamo per la nostra Sara Tardelli, Quota Rosa. Miracolo dell'amore, sapete cosa ha fatto? In Indonesia persino il partito islamico, diciamo più antico, Pietrangelo, ha introdotto la Khaled Kantik, la bella candidata. E dico, che bello, no? Cioè il 30% di donne devono essere candidate in questo partito, che bella notizia. No, non è tutto oro quello che luccica, perché queste candidate sono state trasformate da questi vecchi volponi in ragazze civetta, quindi attrici, cantanti, star dei talent show, che purtroppo però sono incapaci di avere un pensiero autonomo politicamente. Ma vi ricorda qualcuno, diciamo, questo casting, scouting di cantanti, attrici? No, perché ci hanno fregato anche l'idea della quota rosa, cioè ci hanno rubato il marchio del Made in Italy in Indonesia. Beh, è un'applicazione del metodo Tsipras della Bakidu. Come si dice? Vabbè, ma non è che Bakidu, se sposti giusto, l'attenzione è meno peggio, non è però, Pietrangelo. Però lì tutto lato B, tutto lato Brass. Volano gli uccelli, volano nello spazio tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo. Allora, intanto c'è una notizia che Battiato l'ho messo io e non Buttafuoco. Quindi e questa è la notizia. Si sono invertiti i ruoli, tra un po' mi sentirete cantare poesie. Ma vabbè, lasciamo stare. E perché gli uccelli volano ovviamente, ma cinguettano anche. Ci occupiamo un po' della bolla high tech ancora, perché io mi sto divertendo a guardarne la parabola. Consistenza, sì. E il titolo di Twitter ieri ha perso il 18%. Guarda un po'. Ma su e giù? No, va molto giù. Molto giù. Su mai. È in coincidenza con la fine del cosiddetto lock-up, cioè del divieto di vendita delle stock option che sono state date ai dipendenti. Sono una roba da 470 milioni di azioni, per intenderci. La cosa interessante è che qua il titolo è crollato. Quando il lock-up finì invece per Facebook, il titolo salì del 13%. Prima anomalia, diciamo. Ma diciamo che cosa vuol dire? No, scusa, perché io non ci capisco niente. Cosa vuol dire? Che il mercato è completamente pazzo e inattendibile su ecco, questo. No, perché quel che è una conta, roulette, diciamo. Quel che conta sono i fondamentali. Allora, è una roulette. È una roulette, non russa. Guardiamo, guardiamo i fondamentali. Scusa, ma Twitter capitalizza 19 miliardi di dollari, che sono un'enormità. Certo. Cioè la cifra che ha speso Facebook per comprarsi WhatsApp. E già uno dice... Quindi Facebook, per un pezzo del suo business, spende la cifra che capitalizza Twitter. E già uno dice, vabbè, non ci stiamo. C'è qualcosa che non capisco. È lotto volante. Vabbè, comunque, nonostante il crollo del titolo ieri, il valore è 323 volte più alto degli utili per azione. Ecco, in genere la media quale dovrebbe essere nei fondamentali? 10. Ed è già tantissimo, capisci? Quindi stiamo proprio carta Facebook, straccia. Facebook, che tu mi chiedi un paragone, è 39 volte, scusami, il valore 39 volte più alto rispetto ai cosiddetti earnings per azione. Twitter nel primo trimestre ha perso 100 milioni di dollari. Insomma, una tragedia per sarà gli pure, sarà pure nuova questa economia. Tutto quello che volete si consoliderà. Insomma, e... bolle. Però ci vogliono tante bolle prima di consolidarsi sui fondamentali. O prima di far scoppiare tutto. Salamino. Salamini importanti oggi, il teatro alla Scala, La Repubblica. Oggi offre una lettura assai interessante. C'è il carteggio tra il soprintendente della Scala, Alexander Pereira, e Delga Rabl-Stadl, presidente del Festival di Salisburgo. E quindi è tutto un cara Helga e un lieber Alexander. E la questione è tutta nel conflitto di interessi, perché il mitico Alexander Pereira è direttore artistico del Festival di Salisburgo, dal quale acquista 4 spettacoli per il cartellone del Teatro alla Scala per un valore di 690.000 euro. La questione... E se fosse un affare? E se fosse un affare, se la dovranno vedere adesso Pisa Pia, sindaco del comune di Milano, e Franceschini, ministro erede di Bottai, ministro della cultura... La traduzione di cosa? Scrive a se stesso per acquistare da se stesso, con tanto imbarazzo da parte della presidente del Festival di Salisburgo. Disastro. La cosa insomma bella sarà da vedere adesso come se la sbroglieranno Pisa Pia e Franceschini, che dovranno scrivere a loro stessi per rispondere sempre a se stessi. Speriamo che trovino la soluzione. E tutto il consiglio della Scala che sta sotto il naso gli faceva tutto. Che cos'è? E mamma il consiglio mia sulla Scala a questo punto si è affidato a non saper più cosa sia e cosa fare. Così bravi. Oggi, a cura di Marina Milone, come sempre, la prima delle tre puntate che dedichiamo ad Aldo Moro, un caso che a 36 anni dal suo omicidio continua a riempire le prime pagine dei giornali. È lei, professor Francotretta? Sì, ma io voglio sapere chi parla. Brigata Rossa, adempiamo le ultime volontà del presidente, comunicando alla famiglia dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Perché l'onorevole Moro da quella casa poteva uscire vivo. Era la telefonata dell'assistente di Moro Franco Tritto e la brigatista Anna Laura Braghetti. Mix 24. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantando. Vabbè. Comunisti. Buttafuoco si sta alzando. Ma no, mio cugino Fausto la metteva sempre per farmi andare via. Hai capito, Mario, qual è il suo obiettivo? Senti. Basta, se no arriva Tsipras. Allora, e senza lato Brass. Beh, però questa, sentite questa, allora, questa è clamorosa. Allora, ci sono i 10 uomini d'oro degli hedge fund. Insieme, questi 10 signori hanno guadagnato 15 miliardi di dollari in un anno. Più o meno, per intenderci, il prodotto lordo della Cambogia, della Giamaica, cioè di un piccolo paese. Insomma, interessante. Allora, la classifica è stata compilata da Institutional Investor Alpha, che è la rivista più importante del settore degli hedge fund. Vuoi qualche cifra, così? Rapida! David Tepper di Appaloosa Management ha guadagnato 3 miliardi e mezzo. Ti bastano? L'ultimo, no, l'ultimo della cifra, che, cioè della classifica, che è Paul Tudor Jones della Tudor Investment Corporation, 600 milioni. Poverino, chissà, chissà se basteranno per dar da mangiare ai nostri due ospiti. A grande richiesta, al telefono, Maspese loro, Dudu e Aiace Telamonio, i cani di Berlusconi e D'Alema. A spese loro, poi, dopo le cifre che ha detto Mario, è veramente... Ma comunque, allora, sono collegati al telefono con noi Dudu e Aiace Telamonio. Bene, cominciamo con Dudu, perché è più piccolino. Mario, la tua domanda, Dudu? Oddio, e adesso che cosa succede? Perché io non me la ricordo. Ah, beh, quindi l'alleanza fra Renzi e Berlusconi. No, dai, è l'inciuccio. Io voglio sapere, perché noi l'abbiamo sempre detto, che questo governo c'è. E io voglio sapere da Dudu se esiste davvero la possibilità, a questo punto, che Silvio rientri in maggioranza o no. Grazie. Allora, Dudu ha detto che... E aveva un tono diverso. Sì, sì, perché... Ah, certo. E lui dice, è stanco perché ha fatto la lap dance. lap dance. Allora, è stanco, quindi ha il fiatone. Però, allora, ha detto, in merito alla tua domanda, ti fa complimenti tantissimi, dice che sei molto bravo nel fare le domande. Perché ancora? Sì, perché no. Ha sentito Aiace che fa quell'altro discorso. Ma sempre a Minoli, no. Mai a me. Aiace, un attimo. Oggi c'era confusione. Allora, Dudu ha detto che Matteo Renzi è un amico. Poi cos'è? Ah, sì. E che non vede l'ora di giocare con la soave Maria Elena Boschi. E poi cos'era? Ah, sì. E poi dice che si farà senz'altro il governo, perché Papi ecco. Ha detto cosa, che Matteo Renzi ha un quid così, e ha fatto anche un gesto. Grazie Dudu. Con le zampe. Prego. Ma, Giovanni. No, io da Iace volevo sapere una cosa diversa. Se ce la farà D'Alema, il suo padrone, a far capire alla CGIL che è cambiata l'aria nella strategia verso l'Europa. Sempre. Sì, allora, grazie a Iace Telamonio. Dice, mi sembra la sua una domanda piena di proposte. C'è qualche spunto polemico, ma mi pare comprensibile. Però dice cosa... Scusi? Questa è... Lo dica, dice a te, dice. Questa è una vera idiozia, lo dica. Questa è un'idiozia, sicuramente. Perché non è tanto nel far capire com'era... Scusi? Dice, non è tanto nel far capire alla CGIL che è cambiata l'aria, piuttosto il contrario, far capire a Matteo Renzi che per lui non è cambiata l'aria. E che la CGIL fa il suo dovere. Ho capito, niente Europa, va bene, sì. No, chiarissimo. Come niente Europa? No, un minuto, cosa dice? Ha detto, questa è una vera idiozia, lo dica. Questa non lo dico. Bene, si è arrabbiatissimo. Mamma mia, aiuto. Comunque domani, sono rivelatori. Domani la domanda sarà gentile. E bolle. Allora, una musica da noir. C'è una bellissima storia che segnalo. Io ci manderei un inviato, c'è un giallone a Monaco, meraviglioso dal punto di vista giornalistico. Non ho letto ancora nulla sui giornali italiani, però insomma c'è stato un attentato alla signora Hélène Pastor, che è sorella dell'uomo d'affari monegasco Michel Pastor, che è morto qualche anno fa, e sono stati presi, insomma, a fucilate o a pistolettate, certo. Questo ancora non l'ho capito, la sera scorsa. Parliamo, per essere chiari, di una famiglia che detiene un pezzo importante del patrimonio immobiliare di Monaco. Il Pastor è stato presidente della squadra di calcio della S Monaco. Il principe Alberto ha fatto una nota ufficiale sull'accaduto. Ditemi voi se non ci sono gli ingredienti per un giallo. Ricordo che la storia di oggi, curata da Marina Milone, indaga le linee d'ombra del caso Moro. Saranno 3 puntate. Oggi gli interrogativi di uno dei grandi misteri del nostro paese, dall'agguato di Via Fani ai dubbi sul modo in cui sono state condotte le indagini, ai possibili infiltrati della 'ndrangheta nelle BR, al falso comunicato del Lago della Duchessa, dopo il giornale radio.